Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Il ricorso alla fantamagia è una delle risorse a cui più attinge l'uomo contemporaneo. In un momento di crisi questo ricorso si fa più assiduo, più costante, diventa un'idea fissa. Non ditemi che non è vero. Guardate, io l'altra sera ho incontrato una mia cara amica che non vedo da tempo. Pensavo culturalmente evoluta, esistenzialmente risolta. E mi ha parlato che sta studiando i tarocchi. Ma cosa li studia a fare i tarocchi? Sì, è interessante, è un buon passatempo. No, perché sai, delle cose dicono. E ha cominciato a raccontarmi che in fondo se li fa ma non troppo, se li fa ma nella maniera giusta, se li fa lei non ci crede, però in fondo qualcosa dicono. E ho capito che ha messo su una sorta di consorteria di altre consorelle, tutte derivanti naturalmente dall'apoteosi del pensiero positivo, che oggi si fanno i tarocchi. Io ho saputo di piccoli industriali che nel momento della stretta vanno a mettere strane bustine con polverine oltre il reticolato di loro concorrenti, sperando che questo possa nuocerli. Io so di persone che comunque spendono un sacco di soldi in ciarlatani, consiglieri, lettori del futuro. So di gente che dopo circostanze molto tristi, di persone scomparse, o perlomeno in un momento di loro solitudine, non chiedono occasione migliore che trovare qualcuno che vada a richiamare la testimonianza vocale di persone morte, e quindi anche loro pagano persone che fanno scritture automatiche, che riescono a far ballare i tavolini, che fanno voci cavernose, che dicono che sono uno spirito guida, che soltanto lui sa quello che deve essere il destino della sua vita. E poi scoprono sempre che loro sono la reincarnazione sempre di personaggi noti, famosi, sai, io in un'altra vita ero questo, e mi portano a vedere, non so, la foto di un santo del Settecento o la foto di un condottiero del Cinquecento. Mi rendo conto che tutto questo, non voglio disprezzarlo, ha delle basi profonde di domande che si è posta sempre l'umanità, basi profonde di una concezione metafisica dell'esistenza, per cui non sempre ciò che è tangibile, spiegabile, è scientificamente verificabile ha diritto di esistenza. Immagino che possano esistere tra cielo e terra, come citava il buon Shakespeare, un'infinità di cose che nemmeno immaginiamo noi. Ma detto questo, non vedo perché bisogna perdere tempo e risorse nell'alimentare i vari ciarlatani che oggi, attraverso il mezzo di diffusione più seguito, che era prima la televisione, oggi attraverso la rete, oggi esistono servizi di SMS che permettono di identificare il grado di possibilità di avere una storia amorosa con un'altra persona. Manda un SMS, metti il suo nome e vediamo se la tua storia funziona. Beh, questo è credere nella stregoneria, nella magia, nell'irrazionale puro. Non c'è nulla di male. A me piace, amo, ho grande affezione per i miei pregiudizi gloriosi, ma tra questo e creare un grande business e alimentare un grande business ce ne passa. Beh, questa mattina vorrei che mi dicesse il pubblico, e vi supporterò con importanti testimonianze tratte dalla lettura più fedele del nostro profondo, che è quella del cinema, soprattutto il cinema di genere degli ultimi anni, quanti di voi avranno il coraggio di dirmi quando, in che maniera, in che modo, con quale esborso finanziario hanno posto la loro certezza nell'irrazionale. 800 24 00 24. Pugliamo il mare. E non spezzate la catena. La catena non si spezza, è vero, si tira. Peppino, tira la catena. Dove sta? No, tira qua, le mani. Ah, sì. Silenzio. C'è o non c'è? No, io ho paura, io sono nato di 7 mesi, tanto lui lo sa. Ecco, però, non volevo uscire. Silenzio. Tentiamo di stabilire il contatto con l'anima dei morti. Ma i morti di chi devono essere, i nostri o i loro? No, l'anima dei morti, vostri. I loro, no? E che i nostri? Silenzio! Sì. Sembra che ci siano. C'è. No, ma c'è lo spirito. Domandali subito chi deve essere il presente. Chi sei? Chi sei? Io sono Giuseppe Barbagallo. Disgraziato, cosa hai detto? Seduti e tirate la catena. Ma che cosa deve essere? È importante sapere le cose. La verità non fa male. Andò. E il dubbio. Ripeto, non sono mai stato un affezionato cultore del pensiero razionale fine a se stesso. Mi piace sempre mettere il naso, investigare, osservare. Mi piacciono le letture eterodosse, mi piacciono i percorsi undivaghi, ma da questo a alimentare questa pratica che già, vedete, è talmente usurata nell'abuso che ne è stato fatto, tanto che Totò in anni non sospetti già ne faceva una lettura fantastica. Giuseppe Sansonna. Buongiorno. Qui si tratta di Totò Peppino e la dolce vita, in realtà, ovvero la parodia del capolavoro felliniano. Fellini era tutto intriso di magia, magismo, onirismo, aveva anche legami forti col mago Gustavo Roll. Gustavo Roll, sì, certo. È stato fondamentale anche nella sua creatività. Però qui quello che è interessante è l'ingresso nel mondo dei salotti romani, dell'aristocrazia nera, di queste due figure, di queste due forze del passato, che sono Totò e Peppino, che invece fanno parte di un mondo alla Ernesto De Martino, un mondo metastorico in cui la magia era una sorta di involucro protettivo. Tu parli da pugliese, naturalmente. Certo, no, perché terra di tarantate. Esatto, perché comunque annuso quelle atmosfere. Loro cosa annusi? Annuso appunto quelle arcaiche atmosfere che sono legate al loro essere completamente fuori luogo e comunque a usare la magia e in maniera molto legata a dei riti che scandivano dei tempi, delle stagioni e proteggevano dal negativo, dall'irruzione. Parliamo di una civiltà arcaica legata alla terra, completamente isolata dall'evoluzione, dal pensiero contemporaneo e via dicendo. Quello che sorprende è che nel mondo della massima razionalità, nel mondo che ha già proclamato Dio è morto da almeno un paio di secoli, poi riaffiorino comunque tutte queste sorta di sensi arcaici, lontani, che sono affascinanti come oggetto di studio, ma quando diventano una chiave di soluzione concreta alla vita, fa sospettare. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Ci siamo già sentiti per altri argomenti, ma questo è veramente interessante perché ho un'esperienza diretta e mi piaceva di raccontarla. E allora ce la racconto. Avevo un'azienda che non andava come doveva andare e quando le cose non vanno sembra che chiunque possa avere la soluzione per risolvere, ma non quello, è quello è il dramma, infatti, sì. E sono andato appunto da uno di questi maghi. Ma chi l'ha indirizzato al mago? Chi dopo lo strozzino, dopo l'amico, ha detto vada al mago? Solite storie, no? Allora sono andato una volta, due volte, tre volte. Alla terza volta mi dette delle polverine, delle osine. Dice lei quando c'è la luna si deve mettere lì a fare. E lì ho avuto fortuna, Nicoletti, perché lì quel barlume di cervello mi è venuto fuori. E mi sono detto, ma che sto facendo? Ma sarò mica impazzito? Però aveva preteso denaro in cambio delle polverine. Sì, ma non nemmeno un'esagerazione, 50.000 lire per volta non era una cifra da mettere. Per un po' di polvere, per aver votato il sacchetto dell'aspirapolvere, averle dato un pizzichino del pattume di casa propria. Guardi, Vanna Marchi e il Mago del Nascimento hanno venduto sale da cucina per anni e io mi ricordo che lo osservavo in televisione, nello stesso spazio delle televendite in cui vendevano appunto aspirapolvere, cinti erniari, detersivi per fare puliti i pavimenti, vendeva del sale, la gente comprava il sale. Ecco, una vendetta del Mago del Nascimento. Non si può nominare in vano il nome del mago e questo ascoltatore chissà in quale gorgo inestricabile ormai è piombato e non riusciremo a tirarlo fuori nemmeno per i capelli. Non ci credi che sono una strega? Io ho conosciuto il diavolo, si è innamorato di me e mi ha posseduta analmente e mi ha dato i poteri magici. Adesso che sto per morire vorrei che tu potessi seguire la mia strada. Io la ringrazio, però il fatto di essere posseduto dal diavolo analmente non è che mi piaccia molto. No, non c'è bisogno di questo. Ah, ecco. Io posso trasmettere i miei poteri anche per bocca. Io per adesso rinuncio, signora. In comunque in futuro se... Ma perché... siediti! Stronzo, apri il comodino. Sì. C'è una bottiglietta giallina. Sì? Prendila. Sì. E anche il bicchierino. Ora questa è una scena paradossale, assurda, ma t'assicuro, Giuseppe, che venendo da una città profondamente arcaica ma allo stesso tempo misteriosa, piena di sotterranei, ho più volte avuto notizia di alta borghesia cittadina che si univa in sotterranei cittadini per rituali alla dea Lilith, al non so quale entità psicoegizia. Poi alla fine il pretesto era fare una grande ammucchiata, come spesso spesso accade. In questo caso, Paolo Borboni, la grandissima attrice ottocentesca, no? Quest'aria streghesca, avvolta di baldacchini, di velluti damascati, in questo suo antro, accoglie invece il volto da piazzista, un po' da terziario avanzato di Gione Dorelli, che rappresenta il massimo dello scetticismo razionalista, e gli trasmette, però lui è un mago cialtrone, in realtà è un truffatore, e gli trasmette dei veri poteri magici, in cui si crea una sorta di cortocircuito. Tra l'altro Paolo Borboni, celebre per aver inventato, riportato l'aneddoto, il famoso vado a prendere le sigarette, fu detto per la prima volta da Salvo Randone a lei, scendendo da un treno per liberarsi di lei, disse vado a prendere le sigarette, e sparì nel nulla. Quindi da lì che nasce l'archetipo di questo. Comunque, piccolo inciso sul grande Paolo Borboni, che ha questo carisma da strega e conferisce appunto a Dorelli dei poteri magici. 800 24 00 24, abbandonate ogni reticenza, fate una sincera, profonda e cosciente confessione, vedrete che vi sentirete meglio. Non temete che questo possa procurarvi quello che è accaduto all'ascoltore poc'anzi, il primo che ha provato a squarciare il velo del terrore, della diffidenza nei confronti di questa esperienza, è stato autosegato dalla linea telefonica che è caduta, e non so che lui che fine abbia fatto. 800 24 00 24. Fissami, mi stai fissando? Sto cercando, perché lei c'è un po' di strabismo, ma devo stare molto così, professore, perché c'è un'artrosi cervicale che mi tira il nervo. Se la maledizione vuoi sortire, qualcosa devi patire. Comunque abbassa. Grazie. Una maledizione ti circonda a 360 gradi. Se la maledizione è karmica, non ci sono speranze. Se poi la maledizione non è karmica, allora vedremo cosa si può fare. E come facciamo noi a stabilire se c'è questo karmico o no? Svuota la mente da ogni pensiero. Non ho ferretto, scusi. Svuota la mente da ogni pensiero. È afferrato adesso. Ma non si arrabbi, io non avevo sentito, scusi. Svuota la mente da ogni pensiero. Sì. Svuota la mente da ogni pensiero. Te lo senti vuota adesso? È vuoto, vino iniettatore. Alto mare, sì. Vuoi tu distruggere? 800 24 00 24, mi piacerebbe sapere quanti hanno avuto contatti diretti con persone che attribuiscono queste certezze. Vi esprimo subito il mio atteggiamento è molto scettico verso le persone che ricevono denaro, è molto scettico verso le persone che fanno magie, è molto scettico verso le persone che leggono le carte, ma fermo restando che non escludo a priori che possano esistere facoltà, maniere, uso sapiente di riconoscere le coincidenze significative che attraversano la nostra realtà, delle quali forse non abbiamo una spiegazione concreta e razionale, che in qualche maniera appartengono a un mondo indecifrabile, al momento non comprensibile, del quale non escludo l'esistenza, ma non ne ho certezza e non ne ho soprattutto conoscenza. Giuseppe Sansonna, qui invece siamo ancora nel campo della cialtroneria portata a livello di chiave di risoluzione di vicende terrene, concrete. Questo è Occhio Malocchio, prezziamo nel finocchio, che è il settimo sigillo del cinema magico di genere italiano, ovvero c'è Banfi, appunto il pugliese Banfi, con la sua parlata da ma spettacolo, alle prese con lo strabismo perturbante del sublime caratterista Franco Iavarone, che è napoletano, che aveva quest'occhio, ha quest'occhio appunto un po' dislocato, che avvolto nei suoi incensi, nei suoi suffumigi, nella sua tonaca azzurra colorata, insomma, cerca di indicare la via, e poi di chi è l'oiettatore che gli sta portando sfortuna, che è Mario Scaccia, che ha un lungo pelo, e questo è quello che va estirpato per togliere il malocchio. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo raccontare un'esperienza non diretta mia, ma che mi ha raccontato un'amica. L'esperienza è questa. Questa mia amica ha una figlia affetta da una gravissima malattia genetica, una paralisi progressiva, che ovviamente fa tutte le cure possibili del caso, no? E fino a che è stata messa in contatto da una farmacista che l'ha consigliato un preteso mago, zona Friuli, non so dire esattamente dove. Quello che ricorre continuamente questa regione, prima con le donne inclini all'intimidazione, poi con gli UFO che vanno lì perché sono donne incline all'intimidazione, poi con le maghe che creano una sorta di catalizzatore perché lì vadano gli UFO e tutto il resto. comunque questa che le racconta è, cioè, diciamo, sarebbe bella se non fosse anche, no, è tristissima, la soprattutto materia, la farmacista, insomma, no? Andrebbe radiata e scudisciata dall'ordine farmacisti che consiglia una maga. Esattamente d'accordo. No, ma sto parlando di mago, eh? E pensi che questo aveva proposto come cura, a parte degli intrusi da bere, così, no? Delle solettine da mettere nelle scarpe, perché erano solettine energetiche che le avrebbero consentito di camminare o meno. Per cioè, fortuna, una povera ragazza sulla sedia a rotelle dava i plantari. Sì, energetici però, eh? No, la cosa interessante però è l'estremo cinismo di queste persone, che non si fermano di fronte a nulla, perché... Una cosa è fare le carte a un'amica abbandonata dal fidanzato o in declinio di intimidazione, è possibile capirlo questo, ma di fronte al dolore, alla sofferenza, non voglio qui fare il moralista, lo scandalizzato, non lo sono mai e quasi nulla mi scandalizza e mi porta a dare lezioni di moralità, ma di fronte a cose così gravi, come fa una persona a chiedere soldi a una madre per le solette plantariche di una figlia paralizzata? Beh, com'è andata a finire? Finita che la figlia ha detto alla madre, dice, ma mamma, dice, ma stai scherzando, perché la figlia è adulta, no? E hanno chiuso lì la faccenda, poi me l'aveva raccontato questa signora, cioè presa da questa situazione, ma io mi permetto di aggiungere una cosa a quello che ha detto lei, non è vero che si fermano nei momenti in cui avvertono un bisogno, una situazione grave, anzi quella fa da spunto per poter diciamo, per potersi inserire e apprendere. Beh, quello che dico, infatti, lo trovo di un cinismo estremo. Io direi criminale, se mi permette, perché il cinismo può essere, diciamo così, una categoria anche un po' filosofica, no? Ma un'azione di questo tipo... Però Giuseppe Sanzona, le persone ancora più ciniche di me dicono sì, ma Dio li fa poi a coppia, dove c'è un mago che dà delle solette plantariche per una ragazza paralitica, c'è sempre una madre che non riesce a gestire il proprio dolore, la propria sofferenza razionalmente, a un certo punto sbarella, e questo è facile che possa succedere, e va ovunque, pensa che ci possa essere qualcuno che l'aiuti. Si torna al discorso di De Martino, ovvero che la negatività avvolge sempre comunque l'esistenza umana e l'esistenza è precaria, e quindi ognuno cerca delle soluzioni, queste sono soluzioni residuali, poi questi cinici cialtroni finiscono anche col credere nel proprio ruolo e quindi assorbirsi e quindi pensare veramente di avere forse dei poteri, quindi calati completamente nei panni di santoni, di guaritori. 800240024, continuate a raccontarci quello che vi è accaduto, quello che sapete che esista, quello che c'è nell'area. Noi continuiamo a somministrarvi quella che è la lettura ironica, satirica, come se non bastasse la razionalità, il grado, il livello di civilizzazione, di emancipazione culturale che mediamente si è raggiunto in questo paese. C'è stato anche un cinema che l'ha sempre preso in giro, l'ha sempre trattati come buffoni, come macchiette, eppure la gente ha continuato a crederci. Sono stato poi insignito di una cattedra all'università della Sorbolona, poi io ho scacciato malocchio per scacciare poi in futuro bell'occhio, pinocchio e pure un fenocchio che si aggirava nei dintorni dell'università. Poi sono libero docente, cioè posso docere e non docere a seconda, diciamo, delle mie esigenze, in paragnostica all'università di Ustica, cioè mi hanno dato il premio soprattutto perché c'era la rima ostica, c'era un peccato buttarla via, anche perché è mistica come frase di topolomastica. Permesso, che cosa sono tutte queste onorificenze? Tutte queste? Sì. Ma queste non so che 10%, 12 al massimo, delle innumerevoli onorificenze. Ora noi ci fa ridere a batantuono, diciamo, a uno che sente parlare una persona così e trova immediatamente la concezione del cialtrone che ha davanti. Eppure guarda, poche settimane fa le Iene hanno fatto uno dei loro fantastici servizi, una iena travestita da ragazzo gay è andato da un mago sfinocchiatore, da un mago che si faccia pagare per togliere la malattia della gaiezza alle persone. È una persona che non sa nemmeno mettere due parole in fila in italiano, del tutto improbabile. Quando si è visto scoperto poi l'ha inseguito col bastone, è stata una scena divertentissima. Eppure pensa, ci sono persone che davano i soldi a quel mago. Ma infatti non è che debbano avere un aspetto istituzionale serio, serioso, per essere affidabili, devono anche in parte somigliare a certe sacche anche di ignoranza, di povertà a cui poi si rivolgono. Qui c'è l'Ur meridionale a Batantuono con la sua cesta di capelli ricci addobbato di presunte onorificenze che appunto si esprime nel suo solito pastiche e qui trita il linguaggio e comunque la parlantina è ipnotica e anche quella avvolge e convince. Melog, la realtà condivisa. Dunque deve sapere che so tutto. Il ragazzo a un certo momento... Ho detto, so tutto. Ma ha fatto delle cose... L'esorciccio so tutto. Vabbè. Di cosa si tratta? Ecco, noi siamo venuti... Scusate, pronto l'esorciccio, eh? Parli più forte, per favore. Più forte, non si sente! Neppure Croiset sarebbe riuscito. Va bene così. Creda. Grazie a lei la mia piccola Isabella si sposa domani. Lei è il più grande parapsicologo del mondo. E adesso la pregherei di farmi sapere il suo onorario. No, niente, il mio motto è il denaro sporca le mani. Auguri. Dicevamo. Ecco, ho accompagnato qui il mio amico 800 24 00 24. Stiamo dedicandoci alla passione per il paranormale, al mercato del paranormale. Non poteva mancare la fantastica parodia, era un genere in cui si dilettavano con grande proficuo, con grandi proficui risultati Franco e Ciccio, dell'esorcista. Era gli anni in cui l'esorcista terrorizzava la platea di tutto il mondo e naturalmente esce l'esorciccio. Qui c'è Ciccio Ingrassia, che è la versione ossuta e famelica del grande esteta del crimine Vincent Price, che si propone appunto come mago di paese, pagato come azzecca garbugli in polli dai contadini, e riceve la visita di Banfi, che ha un figlio a causa di un amuleto, perché appunto qui entrano in gioco gli amuleti, ed entrano in gioco anche, abbiamo sentito, la capacità di questi santoni di utilizzare le finte telefonate per convincere della propria autorità in termini magici, insomma, quindi queste telefonate registrate. Dei supporter. Dei compari, soprattutto nelle loro incursioni televisive, no? Appunto, sì, facevano anche al tempo di Vanna Marchi, chiamavano le persone beneficate, sì. Tutti i maghi, chiromanti televisivi che ancora ci sono, c'è qualcuno che chiama, dice, non vi accavallate, dicono, ma sì, i maghi, perché... ma anche le cinture elastiche sciogli pancia, le diete, c'è sempre il prima e il dopo, anche quindi... lei, poi pensa a Vanna Marchi, il massimo dell'antiestetica, che propagandava l'estetica e il dimagrimento, cioè l'orrore puro, cioè... Vabbè, questo vedi, per il principio che dicevi prima, sì. Uno ci passa sopra, sì. Figuriamoci, non è quello, è che coglieva nel punto vuoto, nel momento di vacuum della razionalità. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto, vabbè, complimenti per la vostra trasmissione, che secondo me ha un'utilità sociale totale. Non è il nostro scopo, comunque, è involontario, sai, così ci fa piacere, perché comunque, ci permetterà di rilanciarci, ma non lo facciamo per questo. Allora, io vengo da una famiglia del sud, guarda caso pugliese, una famiglia di 5 figli, e mia madre viene da una famiglia di 10 figli. E nella nostra famiglia la superstizione è sempre stata molto presente. Addirittura noi piccoli, da bambini, nostra madre ci toglieva il malocchio due volte la settimana. Con l'olio e l'acqua. Bravissimo, con l'olio, non l'ha visto fare. Forbici, eccetera. Sì. E mia madre, che negli anni 70 ha sofferto tantissimo di emicrania molto forti, e anche poi di depressione ovviamente, guarda caso però risolse andando da un prete che si trovava nella zona di Nuovo Salario a Roma, che si faceva chiamare Padre Ermete. Quello col magnete, lo famosissimo, Padre Ermete guarisce col magnete. No, questo non lo so. No, è vero, col Fratelli Alemanno ci abbiamo fatto una canzone, c'è un magnete che passa il magnete e guarisce. Questo Padre Ermete, che insieme a delle preghiere, insomma, risolse l'emicrania. Gli ha aspirato via l'emicrania col magnete. Sì, in realtà, guardi, io non so cosa dirle, perché in questo caso il clero, in questo caso, non ha mai chiesto danari, non ha mai chiesto... Ma guardi che esiste... Dunque, mi dicono di spiegare l'acqua e l'olio, niente, è un piccolo gioco di banale esorcismo domestico, si fa anche nelle campagne umbre, si mette in un piatto con dell'acqua, delle gocce d'olio. Vabbè, quello lo faceva a casa. Sì, è una cosa da come si compone l'olio, una cosa che ho visto fare migliaia di volte. Esatto. Anche dalle studentesse pugliesi che venivano a studiare a Perugia lo facevano, quindi figuriamoci, è una cosa normalissima, non gli do grande valore, è un giochino divertente. Questa qua di molti preti che mettono in pratica, oltre pratiche esorcistiche, che sono naturalmente nel canone regolare della Chiesa, quindi chi ha fede, se crede in Dio deve credere anche al demonio, quindi l'esorcista ha la funzione di allontanare o creare una barriera alle forze demoniache. Poi certamente ci sono un'infinità di preti, di suore, che si muovono in una zona liminare fra ortodossia e pratiche magiche, ma è un po', soprattutto nelle campagne, sempre stato il compito dei preti di mediare queste pratiche. Sì, ma è famosissimo, ma figuriamoci, non escludo che esista cialtronaggine anche negli ambienti ecclesiastici, che ci sono preti che fanno pratiche magiche. Se ci sono persone che ci credono, e se questo effettivamente crea dei benefici, le persone sono convinte che il magnete aspiri il mal di testa, sua madre guarita ha fatto bene a mettergli il magnete, padre e maestro. Infatti questa cosa a me ha fatto ripensare al detto di Edoardo De Filippo, no? Che diceva che essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Certo, ma è giustissimo. Infatti secondo me ci vuole un atteggiamento sorridente e leggero nei confronti di queste cose, nemmeno quelli che si inveleniscono per cercare sempre il trucco dietro, sono persone che dedicano la vita per cercare il trucco. A me, se padre Mete col magnete ha un trucco, o se realmente è convinto che se passare dal magnete si aspira gli spiriti malefici, o se fa bene, perché le persone sono convinte che il magnete faccia bene, non mi toglie poi la serenità. Mi toglie la serenità, le persone se ne approfittano, che ne fanno uno sporco business, che si infilano nelle pieghe del malessere. Francesca. Buongiorno. Pronto? Sì, sente? Certo. Buongiorno, innanzitutto sono alquanto contenta proprio oggi di parlare con lei, perché l'ascolto tutte le mattine. Sarò breve, volevo soltanto raccontare la mia esperienza nel fatto di essermi trovata in mezzo tra due fuochi, il fuoco diciamo del male e il fuoco del bene, anni che furono. E chi ha vinto, il male o il bene? Ha vinto il bene. Anche il bene ovviamente. Sparava comunque. Sì, sì. Volevo dire soltanto questo, che anni che furono ho aperto un'attività che tra l'altro si è rivelata poi essere fiorente, in un piccolo paese del Trevigiano. E cosa faceva? Un'attività di viaggi. Cioè, viaggi come? Fatto, organizzava dei viaggi. Di viaggi, eccetera. Un'agenzia di viaggi. Un'agenzia di viaggi, ma però non era solo viaggi, era anche spedizioni, c'erano diverse cose. E sta di fatto che praticamente vicino a me c'era una signora, una bella donna, che aveva un negozio. Non posso dire quale negozio, perché il negozio, entrambe le attività sono ancora aperte. Se no si capisce subito. Si capiscono, cioè. Sicuramente. E sta di fatto che ho dato la mia amicizia, perché vedevo che in questo negozio non entrava nessuno, cioè lei era sempre molto chiusa, sola. Tra l'altro non riuscivo a capire perché in effetti era veramente, lo è ancora, una bella donna. Probabilmente la cosa tra di noi si è incrinata a causa di una gelosia nei miei confronti, perché mi vedeva diversa, mi vedeva esplosiva, insomma mi vedeva, diciamo, non saprei neanche definire. Cioè lei razzolava bene e l'altra no, questo è il... L'altra no. Possono capitare queste cose, soprattutto tra donne, suppongo. Poi è bello. Comunque, quando quella crema in bocca asciutta è molto più gnocca di noi, immagino la soddisfazione sia altissima. Certo, allora per essere breve, praticamente dovevo fare dei lavori nel retro della mia attività e la finestrella di una metafora nel retro, sì, no, dovevano fare proprio dei lavori, stavano rifacendo la pavimentazione del bagno, se non che i muratori avevano lasciato questa finestrella mezza aperta. Quando l'amicizia si è incrinata con questa persona, esattamente il giorno dopo di questa famosa, come posso dire, baruffa, anche se in realtà non... Ma c'è stato uno scontro fisico, c'è stato uno scontro, un motivo scatenante. Donna, ma qual è stato il motivo? Ma io suppongo che fosse per la gelosia nei confronti di una terza persona che aveva più attenzioni verso di me che non verso di lei. Vi contendevate un uomo? Ma non era proprio così, perché quest'uomo non voleva saperne di lei, sinceramente. Però quindi, di lei sì. Di me sì. Quindi lei aveva un amante che sarebbe piaciuto anche a lei. No, non c'era un amante, era solo un'amicizia piuttosto forte. Comunque, al di là di questo, che cosa è successo? Che la mattina dopo i muratori mi chiamano e mi dicono: signora, venga a vedere che cosa è successo. Allora andiamo a guardare insieme, troviamo per terra, dentro nel bagno, gettata proprio dalla finestrella, questa siringa con dentro 10-20 euro, adesso non mi ricordo più perché sono passati quasi 15 anni dalla storia, tutti sbriciolati e mandati in fumo, come se fossero stati bruciati e buttati dentro, sì, con la siringa insieme dentro in un sacchetto mezzo aperto, mezzo rotto, non saprei spiegare, se non che il geometra che guidava questi lavori mi fa: guardi, fa che le devo essere sincero, io l'ho vista con questa persona, guardi che questa persona è guardata male in paese, perché effettivamente ha fa la maga, no. Fa la maga. Ecco. E faccio no, no, non, ma quello che credo, deve farsi, non è possibile. Che doveva farsi? Un'endovena di soldi bruciati? Cosa voleva? Non saprei spiegarle, perché comunque c'era questa siringa con l'ago inserito, dentro c'erano questi soldi bruciacchiati, sì, e si trovava tutto dentro un sacchetto trasparente, mezzo rotto, buttato, proprio lanciato dentro. È una macumba, chiaramente una macumba. Sta di fatto che comunque io questa cosa, sa, me la lancio alle spalle, cioè me la getto alle spalle, perché non ci credo, non ne voglio sapere. E cosa è successo? È successo che subito dopo mi chiama un'amica, e questa amica stava quasi al confine della provincia, sì, di Treviso, con la provincia di Belluno, e racconto brevemente la vicenda della giornata. Ci siamo. Mi fa: aspetta un attimo che arrivo. Io non sapevo nulla. Questa persona è arrivata, aveva con sé del sale benedetto, del sale grosso, l'ha buttato per terra. Sale grosso? Proprio per terra, negli angoli. Certo, di tutta l'attività. E mi fa: vedrai che con questo sparisce tutto. Sì. Intanto i lavori si sono fermati. I lavori no, assolutamente no. No, perché i muratori di solito col sale No, ma i muratori probabilmente avranno chiuso un occhio. Beh, come finisce? Dai, devo dare la linea. La cosa è finita che questa persona praticamente è rimasta ancora più sola, che l'attività lei l'ha chiusa, la mia è ancora fiorente, e quindi di conseguenza sinceramente quanto poco ci credevi. Sì, ma non c'è nessuna prova che quello sia stata una macumba, forse era, che ne so. No, però trovo strano il fatto di tutte queste coincidenze. Ma può essere che uno si è andato a fare una pera nel vicolo di casa sua, ha buttato via la siringa insieme ai soldi dentro. Era perfetta la siringa. Beh, non era una siringa da insulina. E quella era la stagna. Era una siringa di quelle grandi. Uno che gli dava sotto di butto, magari. No. Se lei vuole pensare così, no. Ma mi trovo strano il fatto che, sinceramente. Vabbè, comunque sia, la morale è questa: l'esorcismo con la siringa bruciata non funziona. Basta un po' di sale e tutto torna come prima. Melog, la realtà condivisa. Comunque, gente coi soldi, gente da rispettare. Invece ci sono di quelli che pagano così, senza fiatare, qualsiasi cifra. Non vogliono sapere niente di speciale, basta parlargli un poco di loro e rimangono come incantati. Certi poi hai visti come si emozionano. Durante le sedute magnetiche c'è sempre qualcuno che sporca. Ce n'erano parecchi condannati oggi. Condannati? Che cosa vuoi dire? Nel gruppo di questa mattina c'era un uomo che morirà presto. Anzi, in un certo senso è già morto. E quella donna, quella col vestito a fiori, metterà al mondo un bambino sordo e muto entro 6 mesi. Quell'uomo a cui ho portato il caffè. 800024, stiamo parlando del mondo fantastico dei ciarlatani, ma anche di quelli che ci credono. Avete sentito la signora, poc'anzi ha raccontato di una terribile macumba fatta da una rivale d'amore, gli ha buttato una siringa incendiata con dei soldi dentro, le ha buttato il sale, insomma si è impegnata per contrastarlo. Ci sono sempre, è un fenomeno tipico di tutto il social networking, le maestrine che invece che esprimere i loro pensieri stanno lì pronti a vedere se possono con la penna rossa e blu sottolineare qualche errore di chi scrive. Mi scrive un signore dicendo: non si dice necromante, si dice negromante. Mi dispiace contraddirla, di queste cose ho una certa cultura perché me ne sono approfondite. Si dice necromante perché necromante viene da morto, da necros e da manteia, che è l'arte divinazione. Il necromante è colui che divina interrogando i morti. Poi che la negromanzia sia un sinonimo accettabile, sono d'accordo, ma poi qual è il problema? Cosa cambia? State a ascoltare, dite le vostre esperienze, raccontate, esprimete dei pensieri. Esiste l'umanità dei correttori e l'umanità di quelli che si esprimono, pur correndo il rischio di sbagliare. Giuseppe Sansone, Arcane è un film che in sé ha una chiave maledetta. Sì, è un capolavoro di Giulio Questi, questo regista strepitoso, geniale, misconosciuto, che insieme al suo complice e altrettanto geniale Franco Kim Marcalli congegnò questo capolavoro. Lui affrontava i film di i generi e poi li portava alle estreme conseguenze. Qui si tratta di una famiglia di meridionali che approda in una Milano soffocante, appunto, quindi c'è un residuo viscontiano, no? Da Rocco e i suoi fratelli, però lei, la madre è una santona, è una Lucia Bosè appena sfiorita, ancora meravigliosa, che ha queste virtù divinatorie, ma ce l'ha anche il figlio, quindi si crea questo rapporto morboso. Ma qui la magia vera è quella del cinema, perché è un cinema ipnotico che appunto parte da Visconti ma approda al Lynch, alla visionarietà, è misconosciuto ed è un peccato, perché c'è una scena strepitosa in cui la Bosè, in una sorta di trance ipnotica, fa uscire dalla bocca una serie di rospi, mentre in una cucina appunto meridionale, nel nord, si suona questo violino e tutti vanno in trance. Però sulla carta sembra ridicolo, ma invece è di un fascino incredibile. Comunque è un film, leggo su Wikipedia, che non è stato distribuito, che il produttore fallì mentre stava stampando le copie. Alla Cineteca Nazionale ce n'è soltanto una copia integrale. Perché Avanguardia, che converge nel genere, era proprio ingestibile, era fuori dai canoni, ma con dei guizzi di... cioè la trama si dissolve nella pura magia delle immagini, nella scansione di immagini, nella evocatività. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo dalla Città Magica, da Torino. Ah. E, c'è una maga qui a Torino, abita a due passi dal centro, una villa d'epoca bellissima. Ma ci saranno tonnellate, la patria di Roll. Sì, brava, questa dice di essere una lieva di Roll. Sì, ma... a parte il fatto che prende 50 euro a botta, che non sono poco. Beh, no, sono pochissimi 50 euro, per una chiacchierata. Devi andare due volte a settimana, c'è gente che va da anni, gente disperata, malati di cancro, gente che deve aprire attività. Il bello è che devi andare lì e stare dalle 8 alle 10 ore in uno stanzino. Chiuso in uno stanzino? No, ma con una quindicina di persone dentro. Con una dozzina, quindicina di persone dentro. Aveva due stanzini, uno per i fumatori e uno per i non fumatori. Ah, beh, grandissima sì. Questa cosa. Sì, poi vabbè, almeno è un social network fisico. Ma infatti sì. C'è gente che poi si è sposata, c'è gente che si è conosciuta, si è sposata, qualcuno ha visto crescere bambini che adesso vanno lì da adulti. Quindi è una funzione sociale. Tutto ci tornano anche i figli di quelli che sono andati prima? Certo, assolutamente, funzione sociale. Poi considerate che, come ha detto lei prima, va a Torino bene, altissima borghesia. Sono contento, cioè a Torino bene. Quindi c'è una sorta di mix sociale. Però vede, questa è una soluzione. Oggi che c'è un problema nel locare, date le nuove leggi giuste, da cui non scappa niente, se avete due stanzini invece che affittarli a uno studente, a una povera vecchia, metteteci della gente dentro, avrete un ricavo senz'altro superiore. Vabbè, questo mi ha dato una cosa molto interessante. Quindi la Torino Bene va assieme a chiunque dentro lo stanzino, per fumatori e non per fumatori, e stanno lì tutto il giorno e guariscono? Sì, no, lei consideri che per andare lì, e lei pensa di uscire alle 9 del mattino, deve andare alle 3 di notte, quindi c'è gente che dorme in macchina fuori da questa casa. Sì, ma i bisogni dove li fanno? Fanno, vanno al bar, c'è un bar vicino che apre alle 6 del mattino, vanno al bar, poi aspettano lì e alle 8 si apre questo portone, magicamente, sì. Si entra dentro. Ah, vorrei andarci, ma... Sì, anche se lei entra alle 8 del mattino esce alle 5 del pomeriggio, se lei entra alle 5 esce alle 2 di notte. Ma per la compressione vescicale come si fa? Cioè uno no, quindi... all'interno c'è un bagno. Ah, c'è una signora, c'è una... si chiede alla signora posso andare in bagno. E quanto si paga? No, per il bagno niente, però si possono comprare vari oggetti che si dice che siano stati di Roll a 20, 30, 50 euro a seconda, ci sono delle forbici, ci sono tanti vari oggetti. E quali sono le pratiche che vengono, diciamo, somministrate? A parte le carte, scrive delle notizie che ti dà un fantomatico... a scrittura automatica, bene, naturalmente, il fantasma che le suggerisce le scritte. Esatto, che vive lì, c'ha anche un nome, tutti quanti lo conoscono. Come si chiama? Matteo. Tutti quanti sperano di parlare con questo Matteo. Speriamo un giorno, possiamo invitare, se ci chiama 800 24 0024. Scrive delle cose. Se Matteo farebbe una grandissima cosa, perché lo faremmo ascoltare alla radio e la gente non dovrebbe ammassarsi nello stanzino per ore e ore. Grazie Giuseppe Sansonna, a domani.